con Nicola Bellucci, regista del film Il Mangiatore di Pietre, al cinema dal 18 luglio 2019. Nicola, ben trovato. Salve a tutti. Lo Per chi ci ascolta, raccontiamo brevemente la trama. racconti te, Ok, io la trama odio raccontarla. allora come lo presenteresti? Facciamo così. Allora, la trama diciamo che è meglio non la raccontare troppo perché è in qualche Certo, modo è un film noir, insomma, è un certo. film in cui lo spettatore deve un po' stare col fiato sospeso fino alla fine, quindi magari facciamogliela scoprire al cinema. No, Certo. io direi che è un film che, non so, penso che in questo momento vale la pena vedere perché ha al centro il tema delle migrazioni, declinato in un modo un po' particolare, ovviamente, cioè cerca di mettere insieme un popolo migrante come quello italiano, cioè l'esperienza delle migrazioni che in Italia sono ormai centenarie, con quella dei migranti odierni, di spostare però la linea da Lampedusa, dal mare, a cui siamo ormai abituati negli ultimi tempi, un po' più su. Perché ci sono quelli che entrano e quelli che poi escono, perché l'Italia ormai è diventato un paese in cui non si desidera neanche stare, e quindi questi problemi continuano, ecco, ci sono problemi, diciamo, queste situazioni si verificano anche nel nord Italia, nelle valli, soprattutto del Piemonte, qui a partire per esempio dal 2017 si sono verificati molti di questi casi in cui degli uomini, cosiddetti clandestini, hanno tentato di attraversare il confine ad alte quote, tra l'altro sono alcuni anche morti, e lì il blocco era stato creato dai francesi, per esempio. Quindi, insomma, è una storia costruita intorno a questo tema delle migrazioni, del confine come luogo simbolico, cui un passeur con un passato di migrante pure lui, come un po' tutti in quelle valli, ritornato nel paese d'origine, si ritrova, come spesso accadeva anche ai migranti, in una situazione, diciamo, di conforto esistenziale, per varie ragioni che nel film vedrete quali sono, e c'è un incontro con un giovane, Sergio, che in qualche modo lo aiuta a rientrare nella vita. Prima Com'era nato tutto? di questo ho fatto un documentario, per esempio per il cinema, che si chiamava Grozny Blues. Ecco, lì ho lavorato in Cecenia per 3 anni circa, insomma è stato un lungo lavoro, complicato. Là mi sono reso conto proprio per esempio di come mai in certe zone ancora la gente veramente ha bisogno di andarsene. Insomma, mi sono reso conto dell'importanza di aiutare le persone che se ne vanno da certi paesi. C'avevo forte questa motivazione, insomma, di dire dentro, insomma, dove ho trovato un soggetto che mi permetteva appunto di unire varie cose, insomma, unire l'idea di fare un film su un uomo e su un ragazzo che, insomma, in senso anche un po' sartreano, alla fine decidono di diventare agenti del proprio destino, di agire, di fare qualcosa, non per forza di eroico, ma proprio di prendere in mano il proprio destino, di riconoscere anche la fratellanza, la comunanza in questi attraversamenti del proprio dolore con quello che viene dall'esterno, quindi in quel senso anche un processo politico che dentro, ecco, interiormente, moralmente avviene e anche poi esteriormente attraverso l'azione. E poi mi interessava raccontare forse anche un'Italia periferica, un'Italia che viene poco, credo, mostrata al cinema, che però mi sembra importante ogni volta riportare alla memoria, ecco, cioè lo spopolamento, per esempio, dei territori, quindi le problematiche anche in zone che vengono poco descritte, poco raccontate. Interessante mi sembra anche la scelta del cast. Sì, mi chiedono sempre come mai ho scelto Luigi Locascio, cioè un siciliano per fare un passeur, diciamo uno spallone montanaro, eccetera. Sì, diciamo che Luigi è un attore fantastico, è un attore, credo, tra i pochi in Italia che riesce a recitare pensando. A me interessava questa dimensione proprio, anche mentre lavoravo con lui, di dare l'idea che ha anche mentre avvengono le cose durante il film, ecco, che questo personaggio, insomma, è come se l'affrontasse quasi con noi, quasi a volte come fosse lui stesso spettatore di quello che succede. Luigi, secondo me, è riuscito a rendere benissimo questo tipo di recitazione. poi a parte questo c'è anche un po' uno stereotipo del montanaro che deve essere grosso, magari poroso, eccetera, invece spesso non è proprio così. L'ho visto anche stando in quei luoghi, frequentando quelle valli, eccetera, spesso sono piccoli, magri, tutti nervi, muscoli, e anche questo quando ho visto nudo Luigi, che nel film c'è anche una scena di un nudo quasi non integrale di Luigi, c'ha quel fisico giusto per me, per quel ruolo. Più in generale ci sono dei volti molto segnati, molto insoliti, e poi delle parti sono anche girate in dialetto. Sì, ho preso per alcuni ruoli minori, ho lavorato con persone del luogo, c'è un'anziana signora che parla addirittura l'occitano, una piccola scena, perché questa in questa valle, che è la Val Varaita, nella provincia di Cuneo, si parlava occitano e ancora oggi i più anziani un po' lo parlano. Poi diciamo, i volti dei personaggi, diciamo, di contorno, insomma, spesso sono persone di lì, quindi interessanti sicuramente, sì, anche da vedere. E poi sì, il cast, sono molto contento del cast, perché avevo attori bravissimi come Beppe Servillo, Paolo Graziosi, Ursina Lardi, Bruno Toreschini, che sono attori svizzeri di fama internazionale, veramente bravissimi. Quindi per essere il mio primo film di finzione, non potevo che essere soddisfatto, ecco, della possibilità che ho avuto di lavorare con questi calibri. In quante sale? Credo che adesso usciremo in alcune sale di alcune grandi città, tipo Milano, Roma, Torino, poi vediamo come va, perché insomma è un periodo un po' difficile per uscire al cinema, però è un film che vale la pena di vedere, lo devo dire, ma credo veramente che sia un film che vale la pena di vedere, perché forse mostra un po', non lo so, un modo un po' inconsueto forse anche di fare film in Italia, insomma siamo ormai abituati a tutti questi stereotipi romaneschi, sempre un pochino tutti centrati in quel mondo là, sai, quindi spostare un po' lo sguardo penso che fa bene, ecco, vedere qualcos'altro. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Il Mangiatore di Pietre al cinema da giovedì 18 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Nicola Bellucci. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori e a presto.